Allora, in alto abbiamo, questo è il Miocene, sino a 5 milioni e mezzo di anni fa, il Pliocene sino a circa 2 milioni di anni fa, e oggi siamo nel Pleistocene, che è l'ultimo. Poi il Pleistocene a sua volta si divide in Quaternario, insomma, roba così. Allora, le prime specie, lì ci sono delle cose chiamate in alto, c'è cioè il Sahelanthropus. Sahelanthropus chadensis, perché l'hanno trovato nel Chad. Poi una roba che si chiama Orrorings, circa 6 milioni di anni fa. Poi cominciano gli ardipitechi, che sono quella zona lì piccolina. C'è un adesso tutti i nomi, inutile che vi insegnate, ma vi dico così vagamente perché voi, diciamo, capiate. Tutte queste scimmie sono già scimmie, sin da 7 milioni di anni fa. Si stanno già separando, c'è già una linea di separazione, poi c'è un'altra roba che vi faccio vedere dopo, dalle altre scimmie, quindi è più semplice come... Da altre scimmie grandi, da altre scimmie antropomorfe, sono i Great Apes, le grandi scimmie, insomma, no? Poi dopo gli ardipitechi comincia la famiglia più ricca di quelli che si chiamano Australopitechi. Dunque, pitecus vuol dire scimmia in latino, quindi l'Australopiteco è la scimmia australe, cioè dell'emisfero del sud. Il più antico è l'Australopithecus anamensis, poi viene l'Australopithecus afarensis. L'afarensis è famoso perché era un Australopithecus afarensis, questo scheletro scoperto nel 1974 da Donaldson, che è stato chiamato Lucy, da cui probabilmente deriva la canzone, no, è il nome di questo Lucy deriva dalla canzone dei Beatles, perché pare che quella sera il gruppo di antropologi del Kenya si stesse ascoltando questa, probabilmente fumavano pure delle sostanze proibite, che noi condanniamo, l'uso di queste sostanze, e quindi allora l'hanno chiamato, sapete tutti che Lucy in the Sky with Diamonds c'è una chiara apologia del consumo di cannabis, cosa che noi, ripeto, condanniamo con tutte le nostre forze. Poi ci sono altri Australopithecus, l'ultimo è il Setba. Contemporaneamente c'è una spellula, queste Australopithecus sono le scimmiettine più fragili, però sono tutte scimmie che hanno una stazione o eretta già, quindi stanno su due zampe, o semi-eretta, cioè camminano un po' a quattro, ma possono stare anche già su due, insomma, quindi è una cosa di, diciamo, passaggio. Tutte le specie del genere Australopithecus sono, diciamo, gracilinee, cioè sono alte circa 1,5 m, 1,40 m, hanno una capacità cranica molto piccola, circa un terzo della nostra attuale, all'incirca 400-500 cm3 nei confronti dei nostri 1500, quindi praticamente uguale a quella di altre specie di scimmie antropomorfe, ma quella Pado 9, che hanno invece una forma del cranio più simile alla nostra, cioè tondeggiante e non così squadrata come ce l'hanno gli altri. Le specie più robuste di questa lì vengono chiamate parantropi e sono più recenti, sono quelli della zona in alto, e sono il Paranthropus robustus, il Paranthropus boisei, il più antico è quello Ethiopicus. Poi comincia Homo. Homo è il genere più in basso. Voi sapete che c'è genere e specie, no? Per iniziare bisogna digitali, ma che siamo mica in uno stato di polizia qua? Per iniziare un po' digitali, va via. Allora, vedete che l'Homo habilis, che probabilmente è il più antico, è di 2 milioni e 8, 2 milioni e 7, 2 milioni e 800 mila anni fa, quindi l'Australopithecus afarensis addirittura è di 3 milioni e 8, quasi 4 milioni di anni fa, gli usi, diciamo, tanto per capirsi. Poi viene l'Homo ergaster, poi viene la specie di Homo più longeva sinora, quella durata più a lungo, che è Homo erectus, è la riga più lunga che vedete, che dura all'incirca da 1.800.000 sino a 300.000 anni fa. Poi c'è l'uomo di Heidelberg, Homo heidelbergensis, e poi c'è l'ultima specie di Homo, che è quella che è stata contemporanea di Sapiens, che è l'uomo di Neanderthal, quindi Homo neanderthalensis. E poi c'è il Sapiens, che è l'ultimo. Adesso vediamo se trovo le altre da farvi vedere. Allora, Sapiens Sapiens una, adesso non si usa più, però per un certo periodo si è usato. Adesso si preferisce dire Homo Sapiens storico, Homo Sapiens attuale. L'Homo Sapiens attuale in realtà non, perché non è una specie diversa da Homo Sapiens, è una sorta di, è quando i caratteri di Homo Sapiens cominciano a stabilizzarsi meglio, e questo succede all'incirca tra i 60 e gli 80 mila anni fa. Quindi nella prima fase, dunque la nostra specie dura all'incirca da 250 mila anni, no? Non di più. Di questi 250 mila però i primi 170-180 sono, come dire, una fase di assestamento, insomma, c'è già la stazione retta, tutte le cose sono le porte, però e anche dal punto di vista della capacità cranica non è aumentata nel corso di questi due, cioè era già circa 1500 cm cubi 250.000 anni fa come oggi. Però alcune forme delle ossa, del tipo l'arcato sopraccigliare, eccetera, eccetera, qualche cosa è, diciamo, cambiata, e la nostra forma attuale è quella del, si chiama, dell'Homo sapiens, diciamo, attuale, o Homo sapiens recente, l'altro è Homo sapiens attuale. Non si usa più dire sapiens e sapiens. Questo grafico vi fa vedere, grosso modo, tutto si legge meglio, da quando Homo ha cominciato a separarsi dalle altre specie di primati superiori, che sono il bonobo, che è quello che noi chiamiamo orangutan, lo scimpanzé e il gorilla. Il gorilla, vedete, è quello che si separa per primo, perché la prima separazione avviene 7 milioni e mezzo di anni fa. Homo non c'è ancora, qui c'è, probabilmente esiste una specie animale, però non abbiamo tracce, che potremmo pensare sia stato un antenato comune di ominidi e di scimmie africane. Poi cominciano, i triangolini sono invece le scimmie africane attuali, quindi vedete che i primi bonobo e i primi scimpanzé sono di un po' dopo i primi gorilla, di poco dopo. Homo si separa all'incirca 5 milioni e mezzo di anni fa. Da 5 milioni e mezzo a all'incirca 3 milioni abbiamo gli australopitechi, le australopitecine, mescolati con delle forme intermedie. Due milioni e mezzo di anni fa comincia una separazione tra le australopitecine, che ormai vanno per i fatti loro e poi si estingueranno, e invece cominciamo noi all'incirca 2 milioni e mezzo di anni fa, comincia il genere Homo, non la specie Homo sapiens, il genere Homo, il genus Homo. Quindi questo vi dà un'altra idea di come... Questa invece vi dà un'idea delle cose come stanno attualmente. Però se ci pensate bene, adesso poi vi dirò a breve che cosa. Allora, in genere vengono chiamati ominidi tutte le specie di scimmie, quelle che noi chiamiamo scimmie antropomorfe in genere. Poi, tra gli ominidi o ominide alla latina, si distinguono gli orangi, che sono il genus Pongo, e gli ominidi propriamente detti, che poi si distinguono in gorillini e ominini. I gorillini sono il gorilla e hanno una qualche parentela con noi un po' più accentuata degli oranghi, ma non tantissimo, mentre fra le tre soli generi vicini ad Europa, adesso quelli che sono più vicini a noi sono il genere Pan, che sono gli scimpanzé. Noi abbiamo, l'essere umano Homo sapiens condivide con lo scimpanzé una percentuale di DNA superiore al 97%, 97, non 50, non 60, 97%. Gli scimpanzé sono simili a noi, molto simili, proprio molto simili. Certo, in questo 3% che c'è di differenza ci sono tutte le robe che noi abbiamo diverse da loro, tra cui ovviamente il linguaggio. Però questo vuol dire che, cioè, questo è per spiegare che non bisogna andare in giro a fare così quanto siamo bravi noi uomini, perché in realtà siamo dei gorilla, un po' più evoluti, con qualche strumento in più, ma non siamo tanto diversi dai, diciamo così. Ora guardate la situazione attuale. Qua in fondo, nelle caselle finali, voi avete il numero di specie per ogni genere, ok? Allora, il genere Pongo, cioè l'orango, ha due specie, il Pongo abeli, che è l'orango di Sumatra, e il Pongo pigmeus, che è l'orango del Borneo. L'orango del Borneo, voi sapete tutti che è a rischio di estinzione. Quindi il genere Pongo degli oranghi ha un genere, due specie. 2, non 10, 20, come capita nella gran parte degli esemplari, ha due specie. Il genus gorilla, il genere gorilla, ha anch'esso due specie. Il gorilla gorilla, che è il gorilla occidentale, e il gorilla Behringer, che è il gorilla orientale. Di questi sapete che il gorilla gorilla, quello di Diane Fossey, è anch'esso a rischio di estinzione. Quindi su 4 specie di oranghi e di gorilla, metà sono a rischio di estinzione. Nel senso che ce ne più poche decine in tutto il mondo, e quindi insomma rischiano ovviamente per una serie di... L'ultimo genere è il genere Pan, che sono gli scimpanzé. Abbiamo il Pan troglodite, che è lo scimpanzé comune, e il Pan paliscus, che è il bonobo. Il più simile a noi è il troglodite. Alla fine abbiamo Homo. Del genere Homo ci sono un sacco di altre specie, ma ahimè tutte estinte. L'habilis, l'heidelbergensis, tutti quelli che si vedono, non mi vedo manco bene io, l'antecesso, l'uomo di Heidelberg e l'uomo di Neanderthal, tutti quelli che abbiamo visto nella cosa prima, ma sono tutti estinti. Di specie attualmente esistenti di Homo c'è solo una, che è Homo sapiens. Se andiamo a fare una comparazione tra quella situazione e quella della gran parte delle specie animali, vediamo che in tutto questo range di specie, questa è una situazione estremamente rara nel regno animale sulla terra. In generale ogni genere, ogni genus, che poi sono quindi di famiglie, ma ogni genus ha dalle 10 alle 20 specie all'interno di ogni genere. È molto raro che ci siano generi che abbiano due specie. Ancora più raro, quasi unico, il caso di Homo, cioè il caso di un genere che ha un'unica specie. Attualmente. Siccome voi sapete che le nuove specie nascono da specie precedenti, per un meccanismo chiamato appunto di speciazione, cioè di formazione della compatta mutazione all'interno di una popolazione abbastanza confinata però dentro il territorio, in modo tale che queste mutazioni non si diluiscano sul disegno della popolazione, ma rimangano più o meno concentrate, a un certo punto, quando con il passare del tempo queste mutazioni arrivano a una superano una certa soglia, praticamente si ha una specie nuova. Voi capite bene che per una serie di motivi è estremamente improbabile che ciò accada per noi. Certo, perché la questione è stata sottostante di un'immigrazione, ma ahimè, Homo sapiens non è concentrato su una funzione di tempo. È sparso su tutto il mondo. Ergo, in conseguenza, non c'è la possibilità che alcune di queste mutazioni rimangano, cioè abbiano tempo di stabilizzarsi dentro una popolazione relativamente più. Quindi certo, per stare in territorio può costantemente muovere, ma si diluiscono nell'ambito, si spalmano su tutta la specie Homo sapiens. Quindi la specie Homo sapiens, per la sua non specializzazione topografica, che è una delle conseguenze del meccanismo del linguaggio, cioè il fatto di essere in grado di creare questa cooperazione stradale, eccetera, eccetera, è possibile, ovviamente non è trascuro, ma è possibile che abbia dato l'origine, che stia dando l'origine a un meccanismo per cui quando la specie notata si estinguerà non avrà origine. Se la specie Homo sapiens si estingue senza avere eredi, ciò significa che scomparirà dal pianeta l'unica specie in grado di parlare. E quindi scomparirà l'unica specie in grado di comprendere i documenti scritti e non scritti che la specie Homo sapiens ha giustamente. Adesso non è anche detto di usare questo presupposto, ma che lo tiene soltanto per dirvi che queste non sono delle cose fatte senza qualche parcellone della questo, sono cose che sono biologi, antropologi, linguisti, quindi sono nel fatto degli studi specifici. Sta di fatto certamente che questo è un meccanismo molto. Perché il meccanismo di speciazione consiste, cioè il meccanismo di speciazione richiede in qualche maniera un certo confinamento geografico della specie. Le nuove specie nascono in piccoli gruppi di una specie che già diciamo esiste, che sono isolati da altre. Ora di questi gruppi non ce n'è più in Homo sapiens. Anche quelli che ci sono stati sino a 2-3 secoli fa, ormai sono entrati dentro, anche gli eschimesi che vedrete adesso, Nanook, eccetera, sono ormai entrati dentro un circuito per cui è totalmente improbabile, per non dire impossibile, che un eventuale insieme di nuove mutazioni abbia un luogo specifico dove con il tempo stabilizzarsi, cioè diciamo, mettiamo che siano mutazioni favorevoli, che favoriscono e non ostacolano la sopravvivenza, anche in questo caso non avranno un posto dove stare concentrate e quindi specializzarsi e quindi diciamo riprodursi in quel modo. Verranno spalmate più o meno su tutto l'arco della popolazione. Sono cose che non avvengono nel giro di 2-3 anni, 10 anni, 100 anni, avvengono nel giro di migliaia di anni, come ovvio. Ma ormai la situazione della specie Homo sapiens sul pianeta è fatta nel modo che abbiamo detto. Ecco perché, questo spiega perché siamo gli unici, l'unica specie del nostro genere. Adesso, detto in maniera figurativa, siamo stati noi, è stato Sapiens che non li ha sterminati, forse le cause Neanderthal anche li ha anche sterminati fisicamente, e però ha posto le condizioni per cui quelle altre specie che erano un po' meno adatte di noi, in condizioni di relativo isolamento avrebbero potuto mantenersi anche quelle altre specie, ma siccome Homo sapiens si è progressivamente allargato sul pianeta, dovunque arrivava sapiens vinceva lui in qualche modo dal punto di vista delle condizioni, gli altri erano meno adatti, quindi si estinguevano, compreso il più longevo che è stato Erectus. Va bene, l'ultima è semplicemente vi fa vedere più o meno quello che vi ho detto prima, insomma. Questo è Erectus, questo è l'Australopithecus, l'Australopithecus nostro. Allora, da questi qui sono i più antichi, 6 milioni di anni fa, ma non vi dà più o meno la lunghezza. Vedete che il Sahelanthropo è il più longevo, seguito dall'Australopithecus africanus, anche la parentesi è lungo, questo è Erectus, vedete com'è lungo. E poi vanno gli altri, Sapiens è quella pezzettino di roba lì, siamo i più giovani, siamo i più, però abbiamo già fatto sufficiente cammino. Va bene, allora finita il tormento e la tortura delle cose di oggi, adesso ci vediamo questo film, ne discuteremo un po' meglio la volta prossima. Comunque è un film del 1922, si chiama Nanook of the North, Nanook del Nord, Nanook, adesso vedrete come è scritto, quindi vedrete tutto quanto. Il suo regista è Robert Flaherty, che viene considerato, è uno dei padri del cinema, al pari di Griffith, di Budokin, di Herbert, di Dobson, insomma dei grandi del cinema degli anni 10-20, diciamo della generazione dopo i fratelli Lumière e Georges Méliès, di cui vi raccomando di andare a vedere, se non avete visto ancora, Hugo Cabret, che è un bellissimo film di Martin Scorsese sulla vecchiaia, cioè è una favola, insomma, però, il cui protagonista è Méliès vecchio, e si parla del cinema, si parla delle origini del cinema, è un film bellissimo, molto meglio di The Artist, secondo me, non so. so se andate al cinema o se vi scaricate i film da insomma, comunque cercate di vederlo. Hugo Cabret in realtà è un francese, è ambientato tutto nella vecchia stazione del Quai d'Orsay, quando c'era ancora la stazione d'Orsay, adesso c'è il museo, fatto dalla... a Parigi, certo sì, fatto dalla signora Hugo Cabret. Chi l'ha fatto il museo d'Orsay? Accidenti, la Gaia Ulenti, ok. La Gaia Ulenti, ma insomma quello è ricostruito in 3D, cioè è un film molto tecnologico ma non si vede la tecnologia, è un film, vabbè, io amo lo Scorsese, quindi sono di parte. Comunque secondo me era molto meglio, insomma. The Artist è bello ma è un po' troppo costruito. Hugo Cabret è proprio, poi per chi ama il cinema è... Va bene, guardiamoci questo, dura un'ora e un quarto. Come si fa a fare il schermo intero? Dov'è? Dove si trova la gente più matta in basso a destra? Questo? No, c'è il più matto in quella. Quello? Quella sì. Quello per la dopo. No, ma questo. Oh, è ovvio che questa è una copia ricostruita del film, quindi mancano alcune scene. E la colonna sonora è totalmente nuova. Tutte le linee in inglese, sì, tutte le linee in inglese, sì. Ma dopo mi hanno lasciato il ritratto.